Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Il sergente e il traghettatore, benvenuti a Ferry Boat. Cominciamo con un club un po' singolare, Club Carta e Cartone, una singolare iniziativa che vogliamo segnalarvi di Comieco, il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a Base Cellulosica. È di Carlo Montalbetti questa iniziativa, che è il direttore generale. Hanno creato un club che si rivolge alle aziende, ai manager, ai professionisti, in generale ai portatori di interesse, con un obiettivo, quello di responsabilizzare sull'uso, sul ruolo del packaging, della confezione. Non pensate, è una delle questioni più importanti che riguardano la raccolta dei rifiuti, il consumo energetico, del riuso. In generale gli imballaggi sono un punto cruciale ed è opportuno, e salutiamo con favore l'avvio di un tema così caldo. E a proposito di filiera sostenibile, c'è un importante appuntamento ogni anno, il rapporto sulla sussidiarietà. Siamo al sesto anno, ne parliamo con il presidente della Fondazione per la Sussidiarietà, Giorgio Vittadini. Buongiorno presidente. Buongiorno. Il tema quest'anno, c'è anche un tema speciale, ma lo lascio dire a lei. Innanzitutto, che cos'è il rapporto sulla sussidiarietà? Ma siccome questa è un po' una parola di cui tutti parlano, non si sa, è un rapporto che mostra come si attua la sussidiarietà nei vari problemi, istruzione, formazione professionale, pubblica amministrazione, quest'anno proprio la gestione delle città. Benissimo, è un tema che sappiamo, i nostri ascoltatori sanno che è di fondamentale importanza, perché la città è al centro non solo degli aspetti politici ma anche economici e sociali. Quest'anno il titolo quindi è Sussidiarietà e città abitabile. Avete introdotto, in qualche modo alimentato e analizzato il concetto di città abitabile. Qual è il risultato, presidente, di questa analisi? Il risultato è che i cittadini sono molto insoddisfatti della gestione dei comuni, e non è un caso: i comuni non hanno più soldi, i privati su certi servizi non possono investire, per cui sta peggiorando l'abitabilità delle città. D'altra parte invece i cittadini apprezzano moltissimo quando ci sono interventi dal basso di partecipazione, di realtà che gestiscono il tempo libero, il verde, piuttosto che l'istruzione, la formazione professionale e altro, perché in questo modo vedono che con poche risorse si ottengono risultati qualitativi di alto livello. Noi abbiamo la sensazione, presidente, nel fare, come dire, nel raccontare le nostre storie di responsabilità sociale, di no profit e di sostenibilità qui a Ferry Boat, che la città sia tornata, forse riferendosi a tempi molto lontani, ad essere centrale dal punto di vista non solo della relazione col territorio va da sé, ma proprio anche del sistema economico sociale. Cioè è la città il punto da cui si può ripartire per superare la crisi, ma anche per una nuova concezione economica sociale. D'accordo? Sì, sono molto d'accordo, soprattutto se la città è intesa il luogo dove la gente non sta isolata ma si mette insieme, realtà di quartiere, realtà associative. Io vedo in questo il punto cruciale della città, che mentre altrove c'è un isolamento rispetto allo Stato, rispetto all'ente pubblico, qui le realtà sociali, proprio per l'anonimato che se no hanno le città, possono giocare un ruolo fondamentale per ripensare la città dal basso, e questa è la grande opportunità che la crisi propone. Assolutamente, è veramente questo il concetto. Un ultimo particolare, giusto per curiosità: il rapporto è basato su un'indagine statistica fatta su un campione, immaginiamo. Campione di 5.000 cittadini presi, stratificati nelle 12 città sopra i 250.000 abitanti, in modo proprio da isolare il problema città, che è soprattutto nelle città più grandi. Bene, grazie presidente, e alla prossima. Buona giornata. Arrivederci. Chiudiamo con una notizia un po' curiosa. Vi segnaliamo questo nome: Massimo De Luca. Massimo De Luca è un giovane che si prepara ad attraversare l'Oceano Atlantico con una barca a remi, dal Marocco all'isola Barbados. Il tentativo è quello di battere un record mondiale che è di 33 giorni e 21 ore. Non sarà solo, è un equipaggio di 6 persone, ma lui è l'unico italiano. Noi però segnaliamo, non per, come dire, spirito sportivo, anche ovviamente, ma perché all'evento è associata una raccolta fondi per l'associazione internazionale Concern, che ha l'obiettivo di fornire ai bambini di Haiti colpiti dal terremoto strutture parascolastiche. Vi informeremo sull'andamento della sua preparazione alla spedizione. Questo è tutto per oggi, grazie di averci seguito. Su Facebook, Ferrybot-Radio24, cliccate mi piace. Grazie ad Anita Panizza in regia, con Gian Gabriel Lombardo in redazione, scusate, e in regia a Fabio Cantadori. Buona giornata.